Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci alla terza puntata di Medium, il podcast su Netrunner. Innanzitutto devo ringraziare in primis Francesco del Circolo Evolution, che ha permesso a tutti noi di giocare un bellissimo torneo venerdì scorso. Sono arrivato solo secondo, dietro Alessandro Mazzini, il quale, portando un ineccepibile Wayland e un Noise classico, ha portato a casa la vittoria. Devo dire che le partite che ho fatto durante il torneo mi sono state molto utili per imparare qualcosina, di cui parleremo oggi. Passiamo quindi alla prima rubrica del programma. The Personal Workshop. Oggi si discute sul se includere o meno carte specifiche per il metagame che stiamo andando ad affrontare. Varie teorie ci sono a riguardo, e quindi andiamo subito al sodo. Il dilemma è questo: so che sto andando verso un metagame magari orientato verso HB, come è in questo periodo. So però che incontrerò anche delle corporazioni diverse da HB, come per esempio Wayland, e forse anche Jinteki. È conveniente per il runner andare a mettere delle carte specifiche contro una determinata corporazione? Quanto queste carte potranno salvarci dalla strategia della corporazione? Ora, alcune persone sono dell'opinione che mettere per esempio un paio di Plascrit e un paio di E3 Feedback Implant, la manina per gli addetti ai lavori, è assolutamente fondamentale per presentarsi in un metagame ed essere tranquilli di superare i due mazzi che sono più temibili, ovvero il Wayland e l'HB. Io personalmente non sono d'accordo. Credo che per quanto riguarda Plascrit si possa valutare che se la presenza di Wayland è molto elevata sia da mettere forse anche in 3 pair, oppure se abbiamo un mazzo che ignora le tag, nel senso che le prende senza paura, allora lì probabilmente può aver senso mettere i Plascrit in modo da evitare il flatline da Scorched Earth. Se invece sappiamo di andare contro un metagame molto orientato verso HB, secondo me la manina non serve poi a tanto, anche se la mettiamo in 3 pair e anche se non ci costa influenza. Per quale motivo? Innanzitutto, molti HB non utilizzano ice che possono essere rotti con l'uso del click. Questo perché l'HB Fast Advance utilizza ice molto poco costosi, perché deve far crescere il suo pool di denaro per poter giocare i Biotic Labor, e quindi non abbiamo una massimizzazione del vantaggio nel momento in cui andiamo a praticamente creare 3 slot morti all'interno del mazzo solo contro HB. Se invece siamo di fronte a un mazzo Fast Advance, un mazzo che usa HB ma in maniera molto aggressiva, non avremo sufficienti click per poter rompere tutti gli ice che andiamo ad incontrare, perché solitamente il mazzo HB che fa la fortezza di ice e te li rezza tutti quanti, facendo magari scorando ABS oppure semplicemente avendo una riserva di denaro elevatissima, anche lì la manina non ci aiuta, perché possiamo rompere il primo, possiamo rompere il secondo, possiamo rompere il terzo, ma non è detto che non ce ne sia anche un quarto da dover rompere, e se non abbiamo i breakers non arriviamo in fondo alla run, per non parlare del fatto che abbiamo sprecato tutto il turno per fare una singola run. Io, la mia personale opinione è che nel momento in cui il runner comincia a fare il gioco della corp e a cercare di neutralizzare la corp con delle singole carte, ha già in parte perso, sta dando già per scontato che non può sopravvivere a determinati tipi di corporazione. Al contrario, io credo che in realtà sia proprio nel deck building che noi troviamo una soluzione di neutralizzazione del metagame, cioè inseriamo una serie di combinazioni di carte, oppure decidiamo di portare un determinato runner oppure decidiamo di impostare il gioco in una certa maniera proprio perché sappiamo che il meta è fatto in un certo modo. Cioè, se sappiamo che ci saranno molte realtà come NBN, Fast Advance e HB, andremo a utilizzare tutto quello che ci serve per andare a fare tanto denaro per poter distruggere l'economia stabile di questi due mazzi. Quindi se sappiamo di dover incontrare tanti mazzi che fanno net damage, in generale andremo magari ad aggiungere un Wildside come carta specifica, ma in generale andremo a portare dei mazzi che pescano molto, come possono essere mazzi Noise o mazzi Shaper in generale. Io personalmente credo che il runner debba fare il suo gioco e costringere la corp ad adattarsi al proprio gioco. Vedo che run frequenti, run molto aggressive su tutti i server solitamente mettono la corp in una condizione di estremo timore, perché se vai su qualsiasi cosa viene messo a tavola, a meno che non sia un mazzo heavy traps, quindi carico di trappole, la corp è molto in difficoltà perché si trova a dover difendere praticamente tutti i server, e in questo gioco fortunatamente non è possibile difendere tutto bene. Comunque, abbiamo già preso troppo tempo, questa personal workshop è andata anche molto lunga. Passiamo subito a Jin, la carta del giorno. Jin, the card of the day. Mi sembra automatico andare a parlare proprio di E3 Feedback Implant. La carta è un hardware, costa 2 e ci permette di rompere al costo di un credito una subroutine su un ICE del quale abbiamo rotto già almeno una subroutine. Ora, se non esistesse HB, questa carta sarebbe assolutamente inutile, nel senso che nel momento in cui io arrivo con un mio ICE a rompere una subroutine, poi magari le riesco a rompere tutte le altre. Va da sé che esistono alcuni ICE che per rompere una subroutine hanno bisogno di più di un credito, quindi potrebbe eventualmente darci il vantaggio di rompere le ulteriori subroutine ad un costo minore, però questo non giustifica assolutamente la sua presenza all'interno di un mazzo. Chiaramente l'esistenza di HB e l'esistenza degli ICE di HB che possono essere rotti spendendo un click automaticamente rende E3 molto interessante dal punto di vista dell'economia, cioè invece di usare tutti i click per rompere le subroutine ne rompo solo una e le altre le rompo con il credito, con un singolo credito. Ora, come ho detto prima, io personalmente la considero una carta di reazione invece che di azione, quindi tendenzialmente viene centrifugata fuori dai miei mazzi quando comincio a provarli e quando uso questa carta per poter rispondere ai mazzi HB. In conclusione, E3 Feedback Implant viene bocciata dal sottoscritto. Siete chiaramente liberi di smentirmi, anzi di apportare la vostra conoscenza del gioco per magari farmi vedere la carta da una prospettiva differente. Per ora io la boccio. Passiamo quindi alla prossima rubrica. Quality Time. Quality Time. Fresh new cards for your decks. Parliamo oggi di Dirty Laundry. La carta è neutrale. Al costo di 2 crediti ti consente di fare una run dove ti pare, quindi non ti obbliga a fare una run da nessuna parte in specifico. Se la run ha successo, si ottengono 5 soldi. La carta chiaramente può ricordare un po' le meccaniche e i limiti e le possibilità di Modded, ovvero ci dà sempre un margine di 3 soldi. Ci fa risparmiare un click perché ci permette di ottenere soldi e fare anche una run con dei se e con dei ma, cioè la run deve avere successo e quindi dobbiamo essere sicuri che questa run andrà a successo, altrimenti abbiamo sprecato una carta e 2 soldi. Quindi è una carta molto condizionale. Io la vedo che verrà giocata in mazzi molto aggressivi, quali per esempio dei Kate o dei Gabriel, anche se Gabriel non ha non ha tanto bisogno di fare soldi con carte neutrali. Ad ogni modo, essendo una carta neutrale, credo che verrà giocata spesso. D'altronde, nel momento in cui tu parti per fare una run su un server dove tutti gli ice sono stati rezzati, è una run abbastanza al sicuro. Cioè, lo sai già se entrerai oppure se non entrerai. A meno che non esce fuori qualche upgrade particolare che cambia le carte in tavola, sei già tranquillo che l'andrai a utilizzare. Soprattutto nell'early game, quando non tutti i server sono stati coperti, chiaramente gli archivi sono il bersaglio perfetto per poter massimizzare questa carta. È fondamentalmente l'easy mark che mancava al tutto il comparto dei runner invece che solo ai criminal. Quindi, detto questo, passiamo già subito alla prossima rubrica. Grande carta, Dirty Laundry, non vediamo l'ora che arrivi. Sure gamble, the meta. Unveiled. Per quanto riguarda il meta, oggi parliamo di Andromeda e del mazzo che si crea intorno ad essa. Quando è uscita Andromeda io non gli davo tanto credito per il semplice fatto che la comparazione con Gabriel era assolutamente svantaggiosa ai miei occhi. Chiaramente poi la rete mi ha saputo smentire, perché al di là del link che cambia poco rispetto a Gabriel, avere 9 carte all'inizio e poter malligare per riuscire a riottenere 9 carte a quanto pare sembra essere molto molto forte. Per quale motivo? Il mazzo Andromeda chiaramente dà il suo massimo se all'interno del mazzo andiamo a mettere una serie di combinazioni di carte che ci danno la massimizzazione del primo turno, quindi la massimizzazione di questa pescata immensa di 9 carte e eventualmente la malligata a 9 carte, quindi poter provare due volte di andare ad avere la mano perfetta, soprattutto su una mano di 9 carte, riesce a dare uno sprint tale ad Andromeda, tale da compensare il vantaggio incredibile che si avrebbe se si giocasse con Gabriel Santiago. La apertura base di Andromeda può essere questa: Sure Gamble, che poi è anche il nome di questa rubrica, Crypsis, inserimento di un virus counter su Crypsis, Account Siphon su HD. Una partenza come questa è molto molto potente, perché solitamente porta a 0 la corp e a più 10 tu, quindi ci dà una differenza di 15 crediti. In più crea le condizioni per cui, anche se si è rezzato l'ice, tutti gli altri ice non possono essere rezzati, quindi al prossimo turno sarà possibile entrare praticamente ovunque, perché la corp sarà intenta a recuperare il credito per poter rezzare almeno uno degli ice che aveva steso a terra. Chiaramente ci sono delle combinazioni di ice che possono neutralizzare questo attacco iniziale, ma Andromeda non ha solamente questo nella sua faretra. Un'altra freccia potrebbe essere giocare una carta che dà soldi come un Easy Mark o anche uno Sure Gamble, e poi giocare 3 Crash Space o 2 Crash Space in modo tale che da quel momento in poi qualsiasi ice darà ad Andromeda un soldino nel momento in cui si rezza. Che può sembrare poco, ma se Crash Space viene messa in gioco dal primo turno diventa una fonte di denaro notevole. Immaginate quanti ice mettete in gioco e immaginate soprattutto con l'aggressività di Andromeda quante volte dovrete rezzare l'ice anche vostro malgrado con i Forged Activation Order. Quindi Crash Space fa parte di questa combo per cui Andromeda riesce velocemente a fare tanti soldi, ad essere in un certo senso a creare un setup iniziale molto potente che rende la partita tutta in discesa per Andromeda a sfavore della corp. Ho visto giocare con Andromeda anche Underworld Contact e quella carta che dà il più 1 al link, mi pare si chiami Access to Global Sec. Onestamente questa versione di Andromeda non mi piace particolarmente, forse perché non amo particolarmente Underworld Contact. Ad ogni modo ho visto veramente giocare tante combinazioni, le due più forti ve le ho già dette. Chiaramente tutto il resto del mazzo Gabriel rimane invariato, quindi tutti i trick, gli inside job, i Forged Activation Order, il cane, come si chiama il cane? Emergency Shutdown, sono tutte carte che sono presenti in Andromeda, figuriamoci se le andiamo a togliere. Però ecco, questo start iniziale consente ad Andromeda di avere una possibilità nei confronti di Gabriel, al contrario di Wizard, che non è confrontabile nemmeno lontanamente con Noise. Bene, visto che abbiamo parlato anche del metagame, quindi del mazzo Andromeda, direi che per oggi ci possiamo salutare e vi do appuntamento alla puntata numero 3 per quanto riguarda la Corp, nella quale parleremo di... non ve lo dico, aspettate. Ciao! I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.